Ci avviciniamo alla stagione dei festival e avvicinandoci a questa stagione che è sempre molto ricca, noi non possiamo fare a meno che guardarci intorno e scegliere quei festival che ci sembrano i più significativi, i più importanti, quelli che hanno una storia anche importante e portarli qui a Radio Città Fujiko. Oggi siamo usciti dai confini emiliani e siamo approdati in Lombardia per un festival di cui avete sentito parlare sicuramente tutti. Parlo del Miami Festival. Abbiamo con noi il direttore artistico Carlo Pastore, che si è prestato a fare una chiacchierata con noi. Benvenuto Carlo a Radio Città Fujiko. Grazie mille, grazie per l'invito. Come stai? Perché siamo proprio vicinissimi a questa edizione che, ricordiamo, sarà il prossimo fine settimana, insomma quello che sta arrivando. Quindi com'è il sentimento che state provando? Siamo frullatissimi, come si suole dire quando l'evento è prossimo, quindi quando sei nel turbinio di cose da fare, siamo anche un po' eccitati. La vertigine è un sentimento che ci accompagna in questo cambiamento di location, perché Miami, dopo 18 anni in un posto a casa propria, sempre all'idroscalo, rimane appunto lì vicino, ma si sposta in un'area nuova, quindi siamo a 500 metri, perciò è tutto nuovo quest'anno. Ed è tutto quindi anche una grande scoperta, perché poi puoi immaginare i festival, li puoi vedere nella tua testa e poi vederli costruiti effettivamente quando i palchi salgono, le strutture entrano, è veramente un momento emozionante. E poi c'è l'apertura delle porte, che alla fine sancisce la fine della progettazione e l'inizio delle danze. Questa sta per arrivare, perciò siamo veramente in un fremito, fondamentalmente. È un'emozione fortissima, anche perché facciamo questo festival dal 2005 e quindi le cifre iniziano a diventare tonde, e essere ancora qua comunque è qualcosa di miracoloso, e quindi cerchiamo di valorizzare questo miracolo al meglio ogni giorno, con tanto lavoro ma anche con tanta voglia e tanto desiderio. Beh, sono d'accordo con te, anche perché parlavi, no, del momento in cui si aprono le porte, e fino a quel momento quello che hai creato tu, la tua creatura, poi passa nelle mani del pubblico, no? Quindi di chi viene e che ci mette la propria energia, perché a quel punto la fattibilità o comunque il successo o meno ha tanto a che fare con chi viene, no? Ah, vabbè, ma il pubblico, secondo me, in un festival non è meno importante degli artisti che suonano. Cioè, l'esperienza che si crea in un festival come il Miami, che ha quattro palchi, più di 80 artisti sui palchi e appunto migliaia di persone dentro, è un'esperienza che vive della somma di queste parti. Non esiste musica su un palco senza un pubblico che la vitalizza, che le dà senso. Quindi è il nostro un grandissimo dialogo, quello che si crea appunto all'idroscalo nei giorni in cui siamo là, e questo credo che valga per qualsiasi altro festival in cui l'esperienza umana è al centro di tutto, perché poi alla fine della fiera dobbiamo sempre ricordarci che in un momento come questo, dove c'è molta disumanità che corre attraverso le diverse guerre che accadono nei mondi, il fatto che possiamo tranquillamente fare a meno della nostra intelligenza per questioni basiche, o anche non troppo basiche, perché tanto ce n'è un'altra che funziona molto meglio della nostra, perché della nostra si è abbeverata, che è quella artificiale, via dicendo. Alla fine, lontani, distanti, ma quando ci troviamo assieme in un posto, scatta qualcosa che è una magia. Questa cosa qui è quel fuoco che continua a far bruciare il Miami, e che penso che vada tutelato, e dobbiamo continuare a metterci un po' di legna sopra e continuare a farlo ardere. Proprio riguardo a questo mi viene un po' in mente quello che è nel comunicato stampa, un po' forse il messaggio, no? In cui dite: tempi in cui la violenza e la dolcezza inaspettata si incontrano indistinguibili, l'universo freme, trema ogni cosa. Nell'anno del serpente, altrove, qui. Il cuore è lo stesso, cambia la pelle, inizia il rituale, il veleno e la cura. Giusto, è quello che avete scritto, insomma, che avete comunicato, giusto? Esattamente, perché okay. È proprio questo, perché guarda, ci sono alcuni riferimenti, ovviamente, sai, quando tu vuoi fare una cosa, no, per vendere, allora comunichi molto dritto, dici: questo è il messaggio, così ti arriva bello dritto in faccia. Diciamo che noi non abbiamo avuto non abbiamo mai avuto questo approccio così diretto, ci piace un po' anche provare a usare un po' di poesia anche nelle cose che facciamo, però in questo testo c'è tutto, cioè c'è il fatto che siamo altrove ma qui, cioè siamo sempre all'idroscalo ma siamo comunque in un posto nuovo, diverso rispetto al precedente, il fatto che siamo dentro la città ma siamo anche un po' fuori dalla città, quindi siamo in un parco ai confini della città eppure dentro la città, quindi non sul cemento, in asfalto, fra i palazzi, in mezzo alle macchine, bensì in mezzo agli alberi e al lago. Vuol dire che siamo in una dimensione diversa rispetto allo spazio-tempo delle nostre vite, eppure siamo sempre qui, sempre col nostro corpo. Poi c'è la questione ovviamente del veleno e la cura, perché spesso il veleno e la cura, cioè la dolcezza e la violenza, quindi queste due cose sono nello stesso punto, spesso sono mascherate l'una dall'altra, non c'è bipolarismo, c'è una dimensione che convive allo stesso tempo assieme. Il serpente può morderti e può ammazzarti, ma il veleno del serpente spesso può salvarti. E nell'anno del serpente, perché questo è l'anno del serpente, diciamo per l'oroscopo cinese, no? Sì. Quindi quest'anno noi abbiamo cambiato pelle perché ci siamo spostati, però siamo rimasti sempre noi. Quindi in questo racconto, anche nel tema del festival del veleno e la cura, c'è un po' la nostra riflessione su tutti questi diversi aspetti del nostro immaginario, sul nostro ruolo come festival e anche sul ruolo che la musica ha oggi, perché la musica è ovunque, la troviamo facilissima, liquida, streaming, YouTube, quando siamo a fare la spesa al supermercato, la troviamo, quella italiana che noi abbiamo supportato fin dal 2005 nelle classifiche, che ormai domina il nostro paese, e quindi cosa vogliamo fare? Cosa gli artisti vogliono dire? Che posizione vogliono prendere? Che tipo di discorso vogliono fare? Perciò il nostro è un semplice spunto, anche se vuoi che suona bene, perché Veleno e la cura trovo che sia un titolo anche esteticamente fantastico, ma che pone sul piatto queste questioni e speriamo di affrontarle stimolando un'analisi, un pensiero, mentre alla fine poi la musica suona forte dai palchi, perché quella sì che è la cura. Perfetto. Beh, allora io prima di parlare dell'edizione proprio del 2005, della 19ª edizione, ti chiederei se hai voglia di scegliere una canzone per iniziare a entrare nel mood giusto. Ah, io ho scelto una canzone che è veramente forse perfetta per chiudere questo discorso, perché mi piacerebbe sentire Il veleno di Joan Tile. Perfetto. Joan è una ragazza che ha suonato a Miami per la prima volta nel 2015 e quest'anno, dopo l'esperienza sanremese, è diventata finalmente un'artista anche un po' più solida e nota ad un pubblico anche diverso rispetto a quello che lei aveva costruito negli anni. Questo pezzo, che noi abbiamo dato peraltro per accompagnare le illustrazioni in movimento che hanno dato appunto immaginario al festival, è bellissimo, perché ha un sapore fuori dal tempo, è un sound super sexy e poi lei è bravissima, quindi direi di ascoltare Veleno di Joan Tile se vi va. Concordo assolutamente con te, l'ascoltiamo e torniamo qui per parlare della 19ª edizione di Miami. Ovviamente questa aggiungendo. Allora, la tua scelta è stata assolutamente condivisa, è piaciuta a tutti, credo anche alle ascoltatrici e gli ascoltatori, ma adesso pensando proprio a loro gli diamo delle informazioni un po' più pratiche forse e anche delle informazioni proprio relative a cosa si troverà al Miami. Ricordiamo che si tiene il prossimo weekend, quindi si parte con la data zero, giusto? Sì, okay. La data zero, giovedì 22 maggio, l'abbiamo chiamata così perché è un po' il giorno della creazione, siamo nella nuova location, nella nuova area e quindi facciamo questa sorta di prima apertura con un solo palco dei quattro che sono presenti al Miami acceso, una serata in cui partiamo proprio dal veleno, cioè nel senso da artisti che trattano nelle loro canzoni i temi della paranoia, del disagio sociale, anche se lo fanno con un sound stellari. Portiamo questo incredibile artista svedese che si chiama Blade, fondatore della Drain Gang di Stoccolma, che troviamo anche nel disco culto di Charlie XCX, Brat, quindi un artista internazionale che ha un peso specifico in una scena che è dell'hypertrap molto importante, e con lui altri tre artisti che un po' gli sono suoi figli putativi in Italia, cioè Azael, il 18K ed Emma. E poi dal giorno dopo, venerdì e sabato, c'è il festival con tutte le luci accese fondamentalmente, quindi quattro palchi, con tantissimi artisti appunto divisi su questi quattro palchi, una ruota panoramica, una sala lettura. Gli artisti che abbiamo sono diversi e vari, si va da Noyz Narcos, che è una leggenda del rap, passando da alcuni artisti fondamentali del mondo urban, indie pop, Bunker 44, Giuse Delizia, I Psicologi, 100.000 Carie. Ci sono queste due next big thing del mondo urban italiano, Saif e Lea. Poi abbiamo i Delicatoni, Post Nebbia, c'è anche due delle migliori formazioni metal italiane come Messa e Fulci, c'è questa doppietta di DJ fantastica, Camuflai e Fenaltea. È un racconto, diciamo così, delle nuove istanze della musica italiana al suo meglio, quello del venerdì, con anche delle incursioni tutte matte. Per esempio c'è il primo live di Prima Stanza Destra, l'esordio live di questo ragazzo misterioso che però sta facendo veramente, sta diventando un piccolo culto, piccolo grande culto nel mondo della musica italiana, con un sound morbidissimo fra la Francia e James Blake. Chiusura poi con Fuck Your Click, Pop X, insomma Fastelli, Moses, Slow Kid, una grande festa. Poi il sabato invece ci sono invece tante cantautrici e tanti cantautori, perché abbiamo insomma la penna maestra di Giorgio Poi, di Diodato, c'è la stessa Joan Tile, c'è Anna Carol, c'è Alice Tribelù dal Sudafrica, c'è l'unica data italiana dei The Pains of Being Pure at Heart, una band di New York di fine anni zero che ha tanto dato all'indie pop, ci sono i Casino Royale. C'è una bellissima Emma Nolde che chiude un palco, ci sono gli Oflag di Scopaxi, il Teatro degli Orrori, il Mago del Gelato, insomma è un mondo molto ricco quello della musica del sabato di Miami, sì. Con tanto di un palco interamente curato da Pop X, che festeggia 20 anni, quindi questo progetto tutto matto, diciamo così, che ha tanto ispirato molta musica italiana, viene celebrato con una speciale curatela a cui gli abbiamo dato in mano le chiavi di un palco, fondamentalmente. Perfetto, e poi c'è la data di chiusura, quella di domenica, giusto? La domenica è una grande festa invece in piazza, alla fine vicino ad una piazza, vicino all'Università Bocconi, insomma al Parco Ravizza, in un parco, sempre comunque però in centro città, perché vogliamo provare a dare una restituzione forte, chiara, alla città che ci ha sempre ospitati, che è nostra madre, nostro padre, cioè Milano, con un evento gratuito per chiudere questa 4 giorni e questo nuovo inizio, questo Miami tutto nuovo, con una cosa che non avevamo mai fatto, quindi con una festa al parco in centro città. Quindi entrate in città in un qualche modo. Intanto che mi raccontavi la lineup, avevo in mente una domanda che insomma non mi ero scritta tra quelle da farti, ma adesso penso sia il caso. Avete sempre avuto la capacità nelle lineup di avere, diciamo, uno sguardo molto lungo, no? Nello scoprire dei talenti che poi nel tempo si rivelano dei musicisti che cavalcano l'onda e diventano mainstream, passami il termine. Ma voi li riuscite a cogliere quando sono ancora un germoglio in un qualche modo. Quindi qual è il vostro criterio, qual è il vostro modo anche di scegliere gli artisti che fanno parte della lineup? Ah, guarda, il modo è sempre quello di scegliere artisti in cui fondamentalmente ci piacciono, cioè nel senso io cerco dell'energia, anche dell'entusiasmo nell'ascolto, e quando effettivamente sento qualcosa che mi colpisce, che mi piace, già di per sé quello è un valore, è una cosa che mi dà voglia di spingere, no? Perché poi c'è questa sorta di proprietà transitiva per cui io ascolto una cosa che mi gasa e mi viene voglia di raccontarla, di spingerla, di tirarla fuori, di aiutarla ad emergere. Quindi questo in generale è un po' un approccio che ho sempre avuto. Poi in generale, cioè, il Miami nasce anche per dare un contesto a una musica che all'inizio veniva percepita veramente come sfigata, quindi che non aveva l'attenzione dei grandi media, e quindi ha per sua natura questa sua rete di incontro e spinta nei confronti degli artisti che iniziano, anche perché c'è all'inizio sempre tutta, insomma, l'artista all'inizio ha un'energia diversa rispetto all'artista affermato, no? È incompleto, è inconsistente magari su alcune cose, però è sfrontato, è coraggioso, è diverso, è anche se vuoi innocente in alcune sue scelte, quindi ci piace essere lì. E anche quest'anno abbiamo fatto la stessa cosa, cioè nel senso cerchiamo comunque nell'equilibrio di una line-up di mettere il futuro, quello che pensiamo possa essere il futuro, e invece poi anche magari delle realtà che sono cresciute con noi, che sono diventate solide. Quindi il punto è sempre l'ascolto e poi anche il coraggio di mettere magari una cosa che non ti fa vendere biglietti, ma che sai che crescerà, perché pensi che possa funzionare. A volte sì, si prende, a volte no, però se non c'è nessuno che lo fa, evidentemente questi artisti non hanno poi la possibilità di crescere, di maturare, perché c'è bisogno di tempo anche per diventare poi affermati, no? E quindi c'è bisogno di appuntamenti che ti permettano di migliorare, di confrontarti con un buon livello di situazione. Ecco, e il Miami è uno di questi, assolutamente. Carlo, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, per averci raccontato cosa c'è dietro Miami. Io ho percepito tantissimo l'entusiasmo e tutta la carica che portate dietro a questa manifestazione, tant'è che appunto siamo alla 19ª edizione, insomma, no? Quindi sicuramente dell'energia ce n'è. Io ricordo che fino a stasera c'è la possibilità di vincere i biglietti per venire al Miami sui nostri canali social, Festivals Backpack su Instagram e su Facebook, e ci arrivate anche da quelli della radio, mi raccomando. Fino a stasera avete questa possibilità. Io, Carlo, ti chiedo se per chiudere questa intervista hai voglia di scegliere una canzone da dedicare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per invitarli appunto a venire al Miami. Allora, dopo aver suonato Gentile, allora ne mettiamo un'altra. Io provo a suggerirvi questa di una band veneta che è piaciuta tanto anche a Damon Albarn dei Blur. Dei Gorillaz, eccetera, eccetera. Insomma, Damon Albarn non ha bisogno di presentazioni. Si chiamano Delicatoni e il loro sound è un sound morbido, elettronico, che ha ispirazioni jazz e soul. Sono fighissimi dal vivo perché sono mega ballabili, super divertenti. E questo pezzo, secondo me, descrive bene il senso del fare un festival. E si chiama La stessa cosa insieme, Delicatoni e Nice Elevator. Perfetto, allora lo ascoltiamo, ricordiamo che li abbiamo anche intervistati da poco, quindi sul sito potete anche recuperare l'intervista. Carlo, grazie Fantastico. Ancora per essere stato con noi e grazie, insomma, ti auguro una buona giornata, ci vedremo sotto palco al Miami. Viva, ciao! Ciao.